Vi do il benvenuto negli spazi della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, che da qualche anno si è trasferita qui al Centro Trevi, Trevi Lab, e lo dico sempre perché soprattutto con i nostri ospiti, in particolare con Giadella Andretto, ci eravamo visti l'ultima volta in via Mendola 5. Faccio così, grazie, perché per motivi sanitari, che se poi devo lasciare ognuno il proprio microfono. Allora, sarò breve. E quindi sono molto contenta di ritrovare Giadella Andretto, un nostro concittadino che ha avuto un grande successo, sta scrivendo tante cose, ma soprattutto, ecco, questo è un libro che mi piace tantissimo perché qui siamo proprio nel noir, nel giallo, nell'intrigo, quindi questi ritmi personalmente mi piacciono molto, non dovrei dirlo, però insomma, ecco, li trovo molto intriganti. E poi sostengo sempre che la tua Adige è una terra molto sinistra, no? Cioè, si presta bene con questi confini, con questo... insomma, mi piace molto. Ecco, però la storia di questa attività di narrazione, di questa attività di scrittore, della fantasia che ha saputo coltivare sapientemente Giadella Andretto, insieme però a Guglielmo Pispisa, che saluto e ringrazio di essere qui con noi, parte anche già da un'esperienza anche molto interessante con la quale ci eravamo confrontati appunto nei primi incontri, che era quello di Kaizen, questo collettivo di scrittura che ci ha intrigato tantissimo e che mi ricordo appunto abbiamo potuto ospitare con piacere nella vecchia sede di via Mendola 5, che ricordiamo sempre con grande nostalgia. E siccome siamo dei feticisti noi bibliotecari, ci siamo portati dietro non solo i libri ma anche gli scaffali, no? Cioè continuiamo a smontarli, a rimontarli avanti e indietro, chissà, andremo anche nel polo bibliotecario con questi scaffali probabilmente, perché siamo rimasti affezionati. Ringrazio tantissimo anche Luca Fregona, che da qualche anno ci aiuta nell'esplorazione di nuove scritture, di nuovi racconti, della memorialistica. Anche questo libro racconta in maniera diversa il nostro territorio, è molto interessante anche vederlo sotto questo aspetto, questi meticciaggi di persone, di storie, di provenienze, di origini che sono la nostra realtà. Ecco. Di cui siamo anche orgogliosi perché sappiamo gestirle, sappiamo mandarle avanti e valorizzarle. E anche questo racconto è una bella sorpresa, vi invito a leggerlo. Però io adesso non voglio più dire nient'altro se non che la biblioteca è sempre contenta di organizzare degli eventi in presenza, perché dopo 2 anni di YouTube, che hanno potuto mantenere un po' i contatti, noi siamo felicissimi di avere di nuovo la possibilità di incontrarvi, di vedervi. Abbiamo creato 2 gruppi di lettura che si trovano ogni mercoledì del mese e se avete piacere potete chiedere le nostre informazioni qui alla biblioteca. Uno è legato alla narrativa del territorio, l'altro invece ai temi dell'Agenda 2030 e soprattutto di quello che può essere una prospettiva futura per tutti noi. Sono temi un po' più complessi, ma sappiamo anche gestirli in maniera leggera, ecco, per impegnativi. Qui ci sono alcuni libri del gruppo Kaizen e li metto lì. Saluto ancora i nostri ospiti, ringrazio Luca e buona serata a tutti. Grazie. Grazie. Allora, io partirei subito a bomba, tenendo conto però che è molto difficile presentare un giallo senza cadere nel anticipare troppo, ecco, senza svelare troppo di questo racconto. Però partiamo dalla prima suggestione. I protagonisti centrali di questo libro sono 2 poliziotti. Uno è un siciliano, Canino Barcellona, che viene da Milazzo, Messina. È specificato. Comunque siamo in quella precisione, zona lì. Però sì. E un altro invece è un poliziotto sudtirolese mistilingue, sì, che si chiama Karl Rothensteiner. Sono 2 personaggi diversi per età, sono diversi anche caratterialmente, perché Tanino è più giovane, Carlo è più anziano, più esperto e con un vissuto anche forse più tragico, e si trovano ad indagare nella stessa questura. Allora, la prima suggestione è questa: tu sei di Messina, tu sei di Bolzano, quindi avete messo tanto di vostro in questo libro, no? E queste 2 figure sono un po' un alter ego vostro, sono una fusione, come le avete costruite? Vai tu che mi viene da ridere. Vado io. Beh, ovviamente il fatto che io sia di Messina e lui di Bolzano c'entra qualcosa nell'origine dei due protagonisti, però c'entra fino a un certo punto e è curioso vedere come c'è tanto di Jadel nel personaggio messinese e c'è tanto di me in quello di Rothenstein. Ad esempio, questa insomma la dico semplicemente perché mi è successo proprio l'altro giorno, una mia amica che stava leggendo il libro mi ha detto: "Ah, guarda, mi piace moltissimo, mi piace molto come scrive Jadel, ma soprattutto anche chiaramente come scrivi tu, come riesci a delineare. Scusa, ma dimmi, tu riesci a capire?" Beh, cioè, fammi sapere quando. Lei allora mi ha mandato un messaggio: "Questa sicuramente è tua." E c'è la descrizione, una descrizione di un ricordo di Tanino Barcellona che rievoca una vecchia, un suo vecchio ricordo di quando era ragazzino e va alla festa di San Nicola a Ganzirri, che è un paesino, insomma, una località, no? Un paesino vicino Messina. E fa una descrizione di questa festa con il cantante tamarrissimo di paese, eccetera. E quello è un ricordo suo. Un ricordo vero, non è che sia andato su Google è proprio un ricordo suo di Messina. Che quindi diciamo c'è un. È vero ed è naturale che i due personaggi, l'origine dei due personaggi sono la mia e la sua, però è anche vero che siamo, spero e credo, riusciti a mettere insieme i nostri caratteri, i nostri ricordi, mescolandoli in maniera in qualche modo evocativa, devo dire. E in più la cosa che mi piace è che l'umanità dei due personaggi va molto oltre quello che noi ci aspettavamo all'inizio. Quando si scrive un giallo, lo dicevamo pure l'altra volta, non si può evitare di venire a patti con le regole del genere e non si deve, in fondo. Se vuoi scrivere un giallo, scrivi un giallo. Quindi bisogna partire da dei paletti ben precisi, poi magari li si può aggirare, li si può interpretare come si vuole, però è giusto e ci vuole accortezza nel tenere presente queste cose. E all'inizio per noi i protagonisti, i due personaggi, erano due indagatori, punto e basta, dovevano essere semplicemente degli strumenti. E li abbiamo creati all'inizio un po' a freddo, un po' a tavolino, ma come facciamo? Devono essere poliziotti, volevamo che fossero poliziotti e non degli indagatori dilettanti, perché francamente ci sembrava molto poco credibile, insomma, quello che a volte, insomma, per evitare l'effetto signora in giallo, ecco, insomma. Per quanto la signora in giallo ha un successo che noi ce lo sogniamo, però quindi forse però e quindi siamo partiti comunque in maniera quasi asettica, devo dire, e magari meno istintiva, meno diretta rispetto ad altre nostre cose. Però man mano che siamo andati avanti, devo dire che i due personaggi veramente ci hanno loro scavato dentro e hanno tirato fuori forse qualcosa appunto di inedito di noi. Ecco, questo è il secondo capitolo di un altro libro che era uscito prima sotto lo pseudonimo Marco Feld, Tutta quella brava gente. Esatto, Tutta quella brava gente, dove già abbiamo questi due personaggi forti come protagonisti. Perché adesso avete scelto invece di mettere di sdoppiarvi, mettere nome e cognome, non più uno pseudonimo unico? Allora, intanto già qua i nomi sono sfasati e non corrispondono alle persone che vedete. Noi giochiamo sempre, da sempre, con le identità. Io e Guglielmo, in particolare, l'edizione è stata fatta prima, lo racconta, veniamo da esperienze di scrittura collettiva varie, siamo sempre stati abituati a scrivere con altri nomi, nomi collettivi, nomi diversi. Kaizen, Zoya Baruntini, abbiamo utilizzato sempre dei nomi che fossero funzionali alla storia che stavamo raccontando. A noi interessa la storia, chi la racconta è veramente in secondo piano. Molto spesso nel panorama delle patrie lettere le cose non funzionano così. Le storie non sono un granché, conta più chi le ha scritte. Per cui abbiamo sempre lasciato che le nostre identità fossero qualcosa di secondario. In questo caso, quando abbiamo firmato il contratto con Rizzoli per questa serie di romanzi, il marketing di Rizzoli, insomma, ci chiese di intavolare una trattativa piuttosto complicata. Noi volevamo che la nostra storia avesse quel titolo là, Tutta quella brava gente, e loro avevano in mente un altro titolo che era Tempesta di vetro. E non volevamo cedere su questo, abbiamo ceduto sul nome perché il marketing ci disse: no, vabbè, ma il nome doppio vende la metà. Siccome eravamo abituati a utilizzare altre identità, abbiamo deciso che, vabbè, proviamo e utilizziamo Marco Felder. Ma Marco Felder in realtà era un'entità che non aveva una storia alle spalle, non era come Kaizen, non era come Zoya Barontini, che sono collettivi di cui abbiamo fatto parte e che hanno una loro identità e una loro finalità. Era un nome veramente, il nom de plume, un nome finto, messo lì per questioni di marketing. Era un nome privo di sostanza, privo di vita. Quindi quando è stato il momento di scrivere il secondo romanzo, abbiamo deciso di intraprendere una strada che porta al sicuro suicidio commerciale, cioè di cambiare in corsa e di tornare ai nostri nomi. Però nel farlo abbiamo deciso di dare un'ultima dignità a questo nom de plume, a Marco Felder. L'abbiamo portato in vita, l'abbiamo trasformato in una entità di carne e ossa e l'abbiamo ucciso. Per cui abbiamo scritto una storia intermedia che uscirà come podcast in 4 puntate per la RAI, per Rai Sanderboden. Uscirà in 4 puntate e racconterà la morte di Marco Felder. È stato trovato il cadavere di Marco Felder in località Vallarsa sopra l'Aives. Il generale Canino Barcellona. Esattamente, uno degli indagatori è un poliziotto siciliano di stanza alla questura di Bolzano che chiameremo Danino Barcellona, come nel romanzo di Marco Felder. Queste in 4 puntate andremo alla scoperta di questo omicidio. E noi l'abbiamo chiamato Mockcast. I mockumentary sono quei documentari finti. Ecco, questo è un mockcast perché effettivamente ad ascoltarlo sembra vero. Ci sono varie interviste agli inquirenti, c'è la RAI di Bolzano con un mezzo busto che dà la notizia, insomma, lo sentirete quando uscirà, ma abbiamo deciso di ucciderlo. E quindi da un personaggio che era bidimensionale abbiamo cercato di tirarne fuori uno tridimensionale e di giocare con l'identità. Tra l'altro, Marco Felder, a parte che è uno slittinista del Liechtenstein, ma questo insomma, ci ha ricordato il fatto che fosse uno sportivo misconosciuto, ci ha ricordato un po' Luther Blissett. Luther Blissett era il nome falso che usavano i Wuming prima di diventare Wuming. E qui le cose si complicano, perché Marco Felder sarà anche uno dei protagonisti del prossimo romanzo di Wuming, uno scrittore di Bolzano che indaga su certe cose, che viene tirato dentro nella trama di un libro di Wuming. Quindi, alla fine siamo riusciti a giocare comunque con l'identità, anche con un nome che ci era stato affibbiato per questioni di marketing, cui noi eravamo particolarmente allergici, e quindi siamo riusciti a, come dire, fare un detourman, prendere questa vicenda e trasformarla in un materiale narrativo anche divertente, se volete, che ragiona in modo ironico anche sui meccanismi dell'editoria contemporanea, sul fatto che il nome di copertina, come dicevo prima, molto spesso è anche più importante della storia che andiamo a leggere. Allora, la storia è ambientata a Ferragosto, si svolge tutto nel giro di pochi giorni e si parte subito con due omicidi dove sembra chiaro quasi sin dall'inizio la soluzione, invece poi quello che appare non è. E sono due omicidi che, in particolare uno, che affondano anche le radici nella Bolzano cattiva, nella Bolzano sporca. Noi siamo abituati a vedere una città completamente enfatizzata, ai mercatini, le strade pulite, eccetera. In realtà ci sono tante contraddizioni e anche tante tensioni. E in questa indagine però i due protagonisti in qualche modo si sganciano, perché uno segue un delitto e uno segue l'altro. Ci volete raccontare un po', senza spoilerare, come si dice adesso, questo pessimo verbo, come è nata l'idea di partenza di usare questo escamotage, insomma, del delitto e del giallo per raccontare anche la città? Beh, devo dire, questa è una cosa che diciamo spesso e ci fa un po' ridere effettivamente. È un po' un vezzo quello che hanno molti scrittori di dire, io sì, ho scritto un giallo, ma il giallo è una scusa per raccontare qualcos'altro, per approfondire una situazione sociale, per raccontare l'aspetto buio, oscuro dell'animo umano, di una città, di una situazione sociale, istituzionale, via dicendo. Devo dire che la nostra idea di partenza all'inizio, quando ancora non avevamo idea nemmeno di chi fossero i protagonisti e dove sarebbe stato ambientato, era proprio quello di scrivere un giallo. Noi non volevamo scrivere un giallo per raccontare qualcos'altro, noi volevamo scrivere un giallo perché ci sembrava divertente scrivere un giallo. E quindi l'idea di affrontare il genere in modo il più possibile tradizionale partiva da lì. Poi naturalmente, come dicevo prima, se ti confronti col genere devi, se non obbedire, quantomeno tenere presente determinati elementi. Di sicuro gli elementi fondamentali del giallo sono i protagonisti, l'indagatore che deve avere delle caratteristiche, più sono gustose, significative, che rimangono impresse, meglio è naturalmente, e l'altro elemento fondamentale è il luogo, l'atmosfera del luogo. E qui ci sono venuti in soccorso naturalmente le nostre diverse radici. Dove lo facciamo? Dove lo ambientiamo? In Sicilia o a Bologna o a Bolzano? Perché insomma i tre nostri punti di riferimento naturalmente sono quelli. La Sicilia era un po', a mio avviso, anche un po' troppo inflazionata. ci si confrontava con ecco, in effetti io di Bolzano, anche Bologna sì, abbastanza, io Bolzano la conoscevo da turista. Lui però mi ha detto: guarda che Bolzano non è semplicemente quella che il turista è abituato a vedere, ma c'è anche un aspetto molto diverso, molto più profondo, noir sicuramente, ma interessante anche e soprattutto da un punto di vista identitario. E mi ha fatto leggere delle cose, mi ha fatto conoscere, e devo dire sono stato perfettamente d'accordo quasi subito con lui, anzi direi veramente subito, sul fatto che è indubbiamente un luogo da romanzo, sia perché ci sono tanti spot, tanti punti, luoghi in cui dei quali è facile ricavare delle scene suggestive, diciamo banalmente, sia perché ci sono moltissimi elementi storico-sociali che ci consentivano di andare a titillare, a ricercare degli aspetti più oscuri, più conflittuali, controversi di una società che in apparenza, all'apparenza del turista che viene qui, sembra un salotto levigato, pulito, in cui tutto funziona perfettamente, e tutto effettivamente funziona perfettamente, però di sicuro ci sono degli elementi, sia nella storia, nell'identità di questo luogo, insomma io sono l'unico, penso, qui non bolzanino, quindi non ve lo devo sicuramente dire io, che lasciano veramente a bocca aperta a chi non li conosce. E siccome il conflitto poi è un elemento fondamentale, e sicuramente della narrazione gialla, ma di qualunque narrazione, di sicuro di conflitto a livello sociale qui ce n'è da vendere, identitario, e qui passerei a lui. Abbiamo sempre lavorato, o abbiamo sempre tenuto presente un concetto nei nostri racconti, l'alterità, l'altro da sé. Chi è l'altro da sé, no? Sono io l'altro. Se ci pensate, noi riteniamo l'altro da sé il resto del mondo, ma insomma il resto del mondo è molto più numeroso di quanto non siamo noi bianchi occidentali, no? Se pensate che insomma gran parte della popolazione sul pianeta è politeista, no, giusto così per dirlo, siamo noi gli altri, no? La maggior parte della popolazione su questo pianeta ha fame, un Kalashnikov e forse un dio, non è certo la nostra situazione. Quindi l'altro da sé è lo specchio in cui non ci guardiamo mai, però Bolzano è un posto in cui l'altro da sé è da sempre presente. Noi in questa città, lo sapete benissimo, abbiamo due città. Ci sono due identità che da sempre vivono, convivono, si scontrano. Insomma, c'è ovviamente una dinamica che da altre parti raramente si incontra. E quindi è un punto di partenza perfetto per ragionare sull'altro da sé, sul rapporto che si ha con lo specchio o con l'altra dimensione. Io quando racconto Bolzano fuori dai nostri confini fisici, lo dico sempre, guardate, io vengo da una città che è due città. Ci sono gli abitanti che vibrano, le cui particelle vibrano a velocità diverse. Condividono un certo spazio, ma non è esattamente la stessa dimensione. Adesso le cose probabilmente sono un po' diverse, ma rispetto ai ricordi della mia adolescenza, beh, ricordo c'erano i locali in cui andavano gli italiani, i locali in cui andavano i tedeschi, insomma ci si muoveva su binari diversi, le stesse scuole. Avevamo l'ora della pausa, mi ricordo, era dilatata, cioè era difficile trovarsi in cortile con i ragazzi della scuola tedesca, nel mio caso. Quindi già raccontare questo, che per noi era normalità, era la realtà di tutti i giorni, quando lo raccontano in altre città cominciano a guardarmi in modo strano. Quindi per noi, insomma, l'altro da sé è una dimensione normale. E già questo è un elemento narrativo, uno spunto narrativo molto interessante. Bene, negli ultimi anni a Bolzano è arrivato un ulteriore altro, no? Cioè il fenomeno dell'immigrazione a Bolzano è cresciuto esponenzialmente e quindi il confronto con l'altro da sé si è ulteriormente moltiplicato e è cresciuto in maniera esponenziale. E questa è un'occasione interessantissima per chi scrive come noi romanzi ed è un tessuto, una trama su cui si può tranquillamente ragionare. Quindi il nostro intenzione iniziale di scrivere un giallo classico poi come dire, si scontra e si incontra con un tessuto sociale e una realtà che ha delle sue particolarità e che ovviamente fornisce delle sollecitazioni alla narrazione. Se i nostri personaggi si muovono in una città verosimile, hanno a che fare con i problemi di quella città, con le istanze di quella città, con le sollecitazioni di quella città, e quindi per forza quella città a un certo punto non è più semplicemente uno sfondo o un'atmosfera o, come può essere in certi romanzi gialli, un colore sullo sfondo, ma diventa un personaggio. Per noi Bolzano è un personaggio. Guglielmo ha cominciato a conoscerla e io gli ho raccontato questo personaggio che è la nostra città. Mi capita spesso anche di andare in giro e... Posso andare? Mi capita spesso di andare in giro e quando mi dicono vabbè, ma cosa volete che succeda a Bolzano? E io no, beh, aspettate un attimo. Allora, intanto vi racconto una cosa. Bolzano è una città in cui, insomma, soprattutto il Sud Tirolo è un territorio in cui abbiamo avuto il primo e l'ultimo attacco terroristico su suolo, tra virgolette, italiano. Abbiamo avuto almeno 3-4 serial killer nel Novecento, perché il primo risale agli anni 30, insomma gli ultimi li abbiamo avuti poi negli anni 90, e quindi insomma... Quindi quando io comincio a raccontare questa cosa, un po' l'immagine della città bomboniera con i geranei sui balconi comincia un po' a sgretolarsi. Poi dico, ma voi lo sapete che in realtà Bolzano è una città, o era fino a poco tempo, una città proletaria, una città operaia. Ci sono le fabbriche, c'è la zona industriale, cioè... gli italiani vengono da famiglie operaie, no? Non è una città come potete immaginare, che ne so, non è Zurigo, non è una città svizzera, è un tessuto fatto di contraddizioni continue, di sollecitazioni continue. Non è la città da cartolina che i turisti hanno in mente. Dietro ai mercatini di Natale, dietro ai mercatini pasquali, visto che c'è la nuova versione adesso, c'è altro. È una città fatta anche di storie nere, storie di sangue, storie di violenza, per quanto pacificata, però è lì. Perché è cresciuto negli anni, diciamo, 70-80 e anche prima, vabbè, se lo ricorda bene, insomma, è ancora prima, perché il primo serial killer che citavi tu ha operato, è stato protagonista di uno dei casi più eclatanti nel 1946, sì, con il famoso caso di Gertrude de Coutin, e poi questa tradizione di, che era una maestrina di San Genesio che è stata tenuta prigioniera e uccisa in una grotta. E poi abbiamo avuto questa striscia che negli anni 80 con il caso Bergamo, il caso Gamper, eccetera, a metà degli anni 90. Quindi sono cose che comunque segnano, perché quando sei un ragazzo, appunto, come è successo a me, come è successo a te, che ti svegli di notte perché pensi sia temporaneo, invece qualcuno ha fatto saltare il Monumento alla Vittoria, oppure la RAI, e tu comunque sei grande abbastanza per ricordarti queste cose, certamente segnano, e questo nel libro c'è, perché da Bolzanino, leggendo questo libro, ho apprezzato in particolare proprio l'accuratezza dei luoghi, la descrizione dei posti, proprio ti riconosci e vivi la storia dentro la città. E poi mi è piaciuta questa trovata narrativa di Tanino, e che vorrei che magari voi ce la spiegaste, che ha uno sguardo diverso dal nostro, che non è incancrenito né dalle tensioni che abbiamo vissuto, e che vuole imparare il tedesco, per cui si appunta le parole che sente in giro perché vuole capire dove è finito. Poi c'è una battuta fantastica, durante un suo giro disperato nella città per una cosa che non sto qui a raccontarvi, e passa per Via l'Europa, che è il quartiere, tra virgolette, il Bronx di Bolzano, chiamiamolo così, e a lui gli sembrava il club mediterraneo, sì, mediterraneo, no? Nel senso che, cioè, noi siamo anche molto concentrati, questo viene anche fuori, no, nel libro, noi siamo molto concentrati sul nostro, per cui abbiamo degli standard molto alti, e poi basta un tossico che ti taglia la strada e quello diventa un dramma. E da questo punto di vista voi avete inserito un personaggio reale, e cioè un consigliere attualmente parlamentare della Lega, che in una campagna elettorale, adesso non ricordo più, 5-6 anni fa, forse ancora per le comunali, si era messo un caschetto in testa e faceva questi video a Bolzanistan, e voi inframmezzate i capitoli con le cronache da Bolzanistan di Filippo Maturi, sostanzialmente. Ecco, questa idea come è venuta e perché l'avete inserita? Allora, partiamo da Tanino e poi arriviamo, sì, arriviamo a Maturi. L'idea era proprio quella, sia da un punto di vista della tecnica narrativa, no? Insomma, avere un personaggio che guarda un luogo per la prima volta, vedendolo per la prima volta, cercando di comprenderlo per la prima volta, ci dava la possibilità, da un punto di vista tecnico, di raccontarlo, di raccontare questo luogo con tutte le sue tensioni, con tutti i suoi meccanismi sociali di relazione e via dicendo, a chi questo luogo non conosce. Perché naturalmente voi a Bolzano la vivete ogni giorno e la conoscete a menadito. Noi avevamo la necessità di farla comprendere anche a lettori che non fossero evidentemente bolzanini, e quindi avere un personaggio che deve imparare giorno per giorno ci consentiva di offrire delle spiegazioni senza che questa cosa sembrasse troppo pesante, insomma, poco giustificata da un punto di vista narrativo. E di contro l'elemento della freschezza di cui parlavi tu, dello sguardo, è stata anche una cosa che ci interessava e che ci fosse, cioè il guardare, e questo magari anche a un bolzanino che legge può interessare, no? Vedere con gli occhi di qualcun altro una realtà che per lui è sempre la stessa, ma che magari vista da una prospettiva diversa può offrire delle rivelazioni, a volte delle vere e proprie rivelazioni. E questo sicuramente pensiamo che sia un valore aggiunto sia del romanzo che per il lettore, ma e lo dicevo prima anche nell'intervista alla RAI che ci hanno fatto prima, Tanino Barcellona, con questo suo atteggiamento di volere imparare costantemente, di appuntarsi sul taccuino i nomi che non conosce, le parole che non conosce, ha anche, apporta un elemento di messinesità qui a Bolzano, perché Messina è un posto che ha tantissimi enormi difetti, ognuno c'ha i bassi fondi che si merita, insomma, non c'è idea. L'Europa, ecco, noi è qualcos'altro. E Messina non è nemmeno, insomma, la peggiore da quel punto di vista, però insomma ha altre difficoltà. Però se c'è un elemento che a me di Messina piace è che è una città, è la meno siciliana delle città siciliane, perché è un posto che per motivi storici, di cose che sono successe, un terremoto che l'ha rasa al suolo nel 1908, è un luogo in cui l'identità è molto, è quasi impalpabile. È un luogo senza identità, e questa cosa è pesante per certi aspetti, però per altri, se la si vive nel modo giusto, e Tannino la vive nel modo giusto, anche unendola a un altro elemento che fa parte dello spirito di Messina, che è un luogo di porto, quindi un luogo di scambio costante, è l'apertura. Non avendo un'identità forte, non siamo legati fortemente a un'idea che ci siamo formati di noi stessi. Questa cosa i siciliani ce l'hanno in genere, insomma, i palermitani, i catanesi, il messina di meno, il messinese di meno, quindi è più pronto a farsi convesso se c'è qualcosa di concavo e concavo, come dice Berlusconi, questo insomma la, è una... tanto per fare una citazione colta, e lui la usa questa cosa, la usa a suo vantaggio per anche dal punto di vista professionale, per mescolarsi in situazioni in cui insomma questo gli può servire, ma anche per ambientarsi in un luogo che in principio può sembrare ostile, insomma, una lingua diversa, delle abitudini diverse, lui però con questo suo modo di fare un po' molto obbligo, insomma, di entrare, noi diciamo, entrare di punta e mettersi di piatto, prima entrare in punta di piedi e poi accomodarsi, e riesce in qualche modo a trovare il suo modo per rapportarsi a questa città e raccontarla. Riguardo al Bolzanistan, passo la palla a lui. Da Tannino, che arriva da un luogo con una identità debole, ovviamente arriva in una città in cui le identità sono fortissime, in contrasto. Ecco, ci piaceva raccontare, appunto, Tannino si aggira per via l'Europa, pensa ovviamente ai bassi fondi di Messina e dice: ma qua mi sembra Club Med, ma di che si lamentano questi? Ecco, io un po' vivendo a Bologna da 20 anni, effettivamente questo sguardo comincio ad averlo anch'io, nel senso che comunque sì, il degrado bolzanino, innegabile se volete, tutto quello che volete, ma insomma è un'altra, il degrado è un'altra cosa. Ed ecco che viene fuori Bolzanistan, e tra l'altro è anche una, rispetto all'originale, non è nemmeno così esagerato. Bolzanistan è semplicemente, sono dei capitoli in cui Tannino, per una serie di questioni legate alla prima indagine, si sorbisce dei video fatti da questo personaggio che va in giro con il telefonino e cerca di documentare il degrado bolzanino, ovviamente esagerando, Bolzanistan ormai, la Bolzano islamizzata in cui il degrado, e mostra il degrado bolzanino, che per noi che viviamo a Messina e a Bologna, insomma, è un po'... Sì, con l'elmetto poi. Esatto, lui va lì con l'elmetto, mostra dei finti fori di proiettile, mostra magari una coperta sudicia, una, può anche una siringa, per carità, insomma, delle cose così, e ci ricama sopra delle storie veramente eccessive rispetto a ciò che è la realtà. E spinge continuamente sempre di più l'acceleratore, in chiave populista, di questa sua visione della Bolzano degradata. E i video diventano sempre più violenti, se vogliamo, e surreali però contemporaneamente. E abbiamo cercato di rendere, ma vi assicuro che la realtà è molto più incredibile del video che descriviamo noi, e abbiamo anche scelto di fare una cosa, non solo lo descriviamo proprio come un video, ma sotto mettiamo anche quanti mi piace riceve e i commenti. Ecco, molti commenti li abbiamo presi, copiati e incollati dalla rete, ahimè, perché sono di una violenza, di una virulenza, di un'aggressività e di una sgrammaticatura, perché prima l'italiano, mi raccomando. Eccoci, lì abbiamo dettato veramente poco, e dico ahimè, perché è una realtà alquanto preoccupante, oltre che triste. E cioè la visione dell'altro, in questo caso, è una visione non solo che esagera e accentua a fini politici, perché poi effettivamente il personaggio che noi citiamo ci ha fatto una carriera su questo, una carriera, poi si è costruito una carriera politica. Ecco, questo video non fa altro che aumentare l'entropia di questo romanzo. Una cosa che ci è stata fatta notare da un ninguno, e che lui ha detto che insomma è uno dei pochi gialli che ha apprezzato, lui non gli piace proprio il genere, dice: di solito il problema del giallo è che è un genere che riporta una situazione di caos all'ordine. Il giallo funziona così, c'è una situazione di ordine, il caos la scompiglia, si ritorna all'ordine. Dice: i vostri gialli fanno esattamente il contrario, non fanno altro che aumentare il caos aumenta, cioè alla fine del romanzo le cose non è che sono tornate all'ordine, c'è un caos ancora più grande. Questo perché forse perché non siamo giallisti e l'idea iniziale di scrivere un giallo ci è completamente sfuggita di mano, e le regole che abbiamo imparato a memoria le abbiamo buttate tutte all'aria. Ecco, una oppure di queste... la fine che dici tu, esplosiva, chiamiamola così, è l'inizio del prossimo. Esatto, è l'inizio del prossimo, ma comunque una situazione ancora più entropica, devastante, insomma... non semplice, ma complessa. Salvo Macedonia, no? È boss dell'Andrangheta a Bolzano. Il nome è ispirato a un boss vero che, di cui non facciamo nome, però insomma ogni bolzanino l'ha riconosciuto subito. Ecco, c'è un'altra cosa che possiamo, così, che mi ha colpito e vorrei raccontare senza rovinare la storia, è che durante una delle sue, durante l'indagine, Tanino va a finire ad un raduno di naziskin, folk apocalittico, gruppi esoterici, eccetera. E a me è capitato proprio per lavoro, nei primi anni 2000, di andare a seguire alcuni di questi raduni, uno proprio a Sarentino. E la cosa curiosa è che, a proposito di mondi paralleli, all'epoca, adesso il fenomeno è un po' diverso, questi movimenti di estrema destra erano divisi etnicamente, per cui avevi i naziskin italiani e i naziskin tedeschi, e facevano le cose separate. A Sarentino chiaramente erano questi qua tedeschi, con questa musica allucinante, white power, eccetera. Stessa cosa la facevano gli italiani, stessi gruppi, magari quelli italiani, ZZ Alfa, non mi ricordo come si chiamavano, eccetera, li facevano qui nei dintorni di Bolzano. No? Quindi ho riconosciuto questi luoghi. Però come li scrivete voi, allora il libro è uscito prima, cioè l'avete scritto prima, l'avete consegnato un mese prima del Covid sostanzialmente, eppure si tratteggia un mondo che è questo, di che poi potremmo definire quello che oggi sono i terapeutisti, i Novax, quelli del complotto, eccetera. C'era già questa roba, l'avevate già colta sostanzialmente, adesso invece la vediamo, è esplosa con il Covid, e adesso la rivediamo con l'Ucraina, no? Sì, tra l'altro è una domanda che ci fanno spesso, perché nel romanzo a un certo punto, consegnato a dicembre 2019, parliamo del Donbass e dei foreign fighters. Ovvero la situazione lì è scoppiata nel 2014, gli scrittori, diciamo sempre, sono delle antenne, quindi captiamo quello che c'è nell'aria. Quella situazione in particolare è una situazione che ci incuriosiva già nel primo romanzo, volevamo indagare un po' il panorama dell'estrema destra che diventa liminare con le teorie del complotto, con una visione dell'Occidente in declino, che è quella che poi ci sta propinando Putin dal canto suo, questa grande madre Russia che è in declino, la Russia zarista, un'idea proprio... E volevamo raccontare questa cosa, poi effettivamente la realtà ci ha quasi superato a destra, giustamente. È veramente difficile raccontare quel tipo di realtà lì, ci abbiamo provato anche senza forzarla, senza farne il fulcro della narrazione, ma volevamo in qualche modo raccontarla perché è una realtà che si sta espandendo, si sta ingrandendo. E d'altro canto, sempre per tornare a Bolzano, è una realtà misteriosa, perché oggi facevo vedere a Guglielmo, no? Ahimè, ci ha lasciati Walter di Disco New, però Walter era anche uno che ha contribuito al successo dei Freibild. E gli ho detto, tu lo sai chi sono i Freibild? Sono un gruppo nazista antifascista. Mi fa, come nazista antifascista? Sono un gruppo nazista antifascista, perché loro sono... E lui già lì, cioè, cazzo... No, perché loro, gli ho detto, sono in realtà sono un gruppo rock di Bressanone, tendenze destrorse, che ce l'hanno con gli italiani, e quindi sono antifascisti, perché i fascisti sono italiani. No, e quindi quando io gli racconto queste cose, lui subito vede le rotelle che cominciano a girare, e già nel prossimo libro abbiamo materiale da raccontare. Ecco, allo stesso modo volevamo raccontare quella cosa lì. E abbiamo scelto di... mettere assieme appunto il complottismo, le visioni esoteriche, l'estrema destra, i foreign fighters, e l'abbiamo fatto mettendo nero su bianco, come anche in questo caso il volume 1 ci ha detto cavoli, però in questo modo fate conoscere il folk apocalittico alla gente, ecco, utilizzando la leva di questo genere musicale che non conosce quasi nessuno, ma che se cercate folk apocalittico, insomma, vi imbatterete in delle cose agghiaccianti, ecco, ha un suo parterre, ha un suo pubblico, e spesso ai concerti, insomma, si assiste a tutto un rituale esoterico fatto di fiaccole, neni, intonazioni che raccontano la fine dell'Occidente, la caduta della civiltà, tutte queste menate. E il problema è che poi, quando questi gruppi lo fanno, si vestono magari da SS o da SA o da Wehrmacht, e insomma mettono in scena tutta una panoplia dei simboli che insomma lasciano abbastanza perplessi, ma fanno anche paura. Io ho assistito a un paio di concerti folk apocalittici, devo dire che era un po' a disagio vedere tutta questa gente vestita in divisa da Wehrmacht, ma non è che sia proprio una roba meravigliosa. Ecco, abbiamo voluto mettere in scena questo, da un lato quasi terrorizzante, e da un lato grottesco, totalmente grottesco. Infatti Tanino assiste a questo concerto, tra l'altro un concerto, una rottura di scatole tremenda, perché dovete immaginare delle neni con delle chitarrine, dei campanellini, questi che cantano la morte dell'Occidente, duparale. Quindi infatti Tanino dice, mi sembra che dica, dopo 20 minuti vorrebbe spararsi in una rotola, dopo 40 vorrebbe sparare al cantante. Lo dice proprio chiaramente, no? Del tipo che potrebbe anche fare. Ed è anche il tipo che potrebbe fare. Decisamente. Ma è un po' quel discorso che dicevamo di prima, sul nostro modo di interpretare il giallo in maniera anarchica, invece di passare dal caos per finire con l'ordine. Partiamo dall'ordine, passiamo al caos, facciamo sembrare che ritorni un ordine per un attimo, per ritornare a riproiettarci nel caos. Ma questa cosa in effetti noi l'abbiamo fatta quasi istintivamente, perché ci interessava raccontare questo tipo di situazioni questa deriva populista, destrorsa, cretinista, che sta prendendo piede nella società non solo italiana, ed è difficile farlo mantenendo un racconto sorretto dalle caratteristiche classiche della storia suddivisa in tre parti, con uno sviluppo e poi una conclusione che riporti l'ordine, che insomma l'omicidio, comunque il crimine, ha alterato. Però ci sembrava fondamentale, o quantomeno molto interessante, l'idea di farlo. Ci solleticava troppo questa cosa, e infatti come dire, sono delle suggestioni sempre più che partono già nel primo romanzo, e in questo sono sempre più frequenti, insomma la frequenza di queste di questi ritorni è sempre maggiore, e in realtà quella fine, insomma, a cui tu hai accennato un attimo, ma che non avrebbe senso, insomma, raccontare, perché e va proprio in questa direzione, perché nell'eventuale prossimo, se mai ci sarà, la nostra idea è quella di cercare di dare una forma a tutte queste situazioni, come dire, pittoresche. Sì, aggiungo un'ultima cosa, magari mi piace il fatto che Guglielmo dica abbiamo un approccio anarchico, sicuramente, anche perché il nostro motto è sarà una risata che vi seppellirà. E in effetti, quando descriviamo queste situazioni, che sono terrorizzanti, cioè assistere a un concerto di fanatici nazisti che mettono in scena questa cosa, è terrorizzante, però è anche vero che è molto grottesco e ridicolo. Cioè, se tu riesci a staccare leggermente, no, a spostare lo sguardo rispetto al luogo in cui ti trovi, a quello che sta succedendo, ti accorgi che in realtà, per quanto siano preoccupanti, sono anche ridicoli. Se non ti menano, sì. Esatto. Quello è una cosa importante. Cioè, pensate alla cinghia mattanza, voglio dire, no? Tu prima citi gli Z0 Alpha, sono un gruppo punk nato in seno a Casa Pound, no? E hanno inventato la cinghia mattanza. La cinghia mattanza è praticamente durante i concerti che fanno, tra l'altro suonano anche male, fa proprio schifo. Comunque, suonano questa musica vagamente punk, molto rumorosa, ma e questi si levano le cinture e si prendono a cinghiate l'uno con l'altro. Cioè, allora, voglio dire, è preoccupante sicuramente, no? Anche il fatto che cantino determinate cose così. Però se ti stacchi un attimo, la vedi da fuori, vedi queste teste rasate che si pigliano a cinghiate, insomma, sinceramente è anche abbastanza ridicola la cosa, no? Cioè, è sempre... Siamo su una riga... veramente di confine tra la follia e il grottesco totale. Una curiosità, siccome appunto i due personaggi è impossibile non affezionarsi, no? Abbiamo parlato poco di Karl Rothenstein. Allora, lui in questo romanzo è ammaccato, sembra quasi a fine carriera, 53 anni però, 53 anni polizia, si va in pensione, 54. E sembra quasi anche determinato andarsene in pensione, sì. No? Alla fine c'è una specie però di sussulto di vita, no? Che ce lo volete descrivere un attimo, e che futuro prevedete per Karl Rothenstein? Perché a me piace capire se farà il consulente in pensione o se farà ancora lo sbirro. In realtà non lo sappiamo ancora nemmeno noi, nemmeno lui, perché lui non vorrebbe che ne parlassimo. Questo è certo, per chi insomma non ha ancora letto, non ha letto questo, non ha letto magari nemmeno quello precedente, Karl Rothenstein, giusto per dare un minimo di contesto, è ovviamente l'alter ego di Tanino, nel senso, cioè tutto ciò che è Tanino, lui è l'opposto, per quanto Tanino sia un meridionale un po' cacciarone, anche se ha un modo meno, come dire, insomma, un po' più sorprendente di quello che si potrebbe pensare di essere un meridionale cacciarone, perché poi ha dei momenti più settentrionale, diciamo. Beh, direi che è cupo come i siciliani possono essere cupi. Sì, sì, quello sì, sì. Indubbiamente. Il dato della cupezza siciliana indubbiamente è puntuale. Rothensteiner invece ha tutta la cupezza teutonica, se vogliamo, insomma, anche se ovviamente non è tedesco, insomma, però la cultura è quella, lui è un meticcio in realtà, è un misto, insomma, due genitori italiano e tedesco, ed ha un approccio alla vita improntato alla durezza, sia per le esperienze che ha fatto, sia per il tipo di patologia che lo affligge, che insomma ha un problema psichico, psicologico e psichico, psichiatrico più che altro, che insomma lo porta nel primo romanzo a affrontare dei momenti di grandissima crisi, proprio da affrontare anche farmacologicamente, e quindi però allo stesso tempo un uomo molto forte, molto determinato, quadrato, inquadrato anche, e allo stesso tempo è uno che sta dentro e fuori dai binari contemporaneamente, perché cioè, ha per il tipo di caratteristiche, di carattere che ha, sembra appunto uno che sta dentro i binari, è quadrato appunto, va dritto a ottenere insomma quello che vuole, però lo fa comunque a modo suo. Per altri aspetti è molto più debole, in realtà è l'anello debole della coppia fino a un certo punto del secondo romanzo, in realtà. Poi insomma qui non accenno altro. Quindi è un personaggio sicuramente dualistico, ha forza e debolezza insieme, ha una grande chiusura caratteriale, appunto lui diceva, lui non, Reutensteiner non vorrebbe che si parlasse di lui, di quello che è, di quello che è davvero, perché sì, è così, insomma, è uno che non ama aprirsi agli altri, però Tamino riesce in qualche modo a piantare un seme di amicizia, di simpatia, di sì. Affinità, in realtà. Sono due persone molto diverse, ma che si ritrovano perfettamente su un terreno comune. È appunto un'affinità. Sì, no, Carlo è talmente fragile che è costretto a essere fortissimo. Cioè lui è uno che se molla il colpo si scatena il vaso di Pandora, quindi lui è consapevole di questo, è consapevole anche che il vaso di Pandora è molto fragile, quindi bisogna manipolarlo con cura. Carl è un personaggio liminare, è sicuramente l'anello debole, ed è il personaggio su cui forse, almeno personalmente, ho investito di più. Io non scrivo Carl e lui scrive Tanino, li scriviamo entrambi, ci sono dei momenti di Tanino che sono magari appunto ricordi miei e viceversa, però in Carl devo dire che ho messo anche dei miei ricordi dolorosi, c'è qualcosa di me in lui, ci sono delle mie esperienze, c'è il mio rapporto con questa città, ci sono delle cose che mi sono successe personalmente e le ho messe lì dentro, ovviamente distorte e tutto quello che volete. È un personaggio che mi dà i brividi alle volte, perché tira fuori delle cose di me che non pensavo di poter scrivere, non pensavo di poter affrontare, e quindi mi ha aiutato anche a esorcizzare alcuni demoni che tenevo da parte tanto tempo. Se fosse un romanzo francese sarebbe sicuramente un noir di quelli tipicamente francesi, se fosse un romanzo americano sarebbe un investigatore alla Chandler. Il problema è che in Italia l'investigatore è uno che si occupa di corna, non è uno che va a indagare su un omicidio, quindi Carl è un poliziotto. Non gli piace essere un poliziotto, non è un lavoro che ama, ma è consapevole di non poter fare altro nella vita, un po' come Tanino anche in fin dei conti, e come molti dei poliziotti che si muovono all'interno delle nostre storie. C'è chi è poliziotta per caso, Giulia Tinebra ad esempio voleva farlo oboista e alla fine non c'è riuscita, è diventata una poliziotta, anche lei ha una storia tremenda alle spalle. Carlo tra l'altro con Giulia ha un rapporto quasi filiale, no? A un certo punto le regala una cosa che per lei è importantissima, che per lui alla fine conta pochissimo, però per lei è un gesto meraviglioso. Ecco, dicevo, tutti i personaggi, a partire da Carl, sono personaggi che si mettono in discussione. Noi li mettiamo sempre sotto torsione, i nostri personaggi li schiacciamo, ci piace spremerli e vedere cosa succede. E loro fanno lo stesso con noi a un certo punto. Cioè, ad esempio, l'ispettore Moretti è un personaggio che potrebbe essere il poliziotto classico. Anche lui si mette in discussione, però, e dice una cosa. Chiunque sia entrato in polizia dopo il G8 di Genova è un fanatico. E abbiamo cominciato a ragionare anche su questo. no? Cosa significa oggi entrare in polizia? Cosa significa fare il poliziotto? Ecco, tutti i nostri personaggi se lo chiedono, non hanno una risposta diversa. C'è chi invece, come Tanino, alla fine ci arriva anche lui perché in fin dei conti chissà cosa sarebbe finito a fare. Fa il poliziotto, è orgoglioso del suo mestiere ed è forse l'unico che non ha troppi problemi con questo. Tutti gli altri invece si mettono un po' in discussione, no? Dicevo, l'ispettore capo Moretti dice questa cosa e soprattutto perché lui a Genova c'è stato nel 2001, ha visto e ha fatto certe cose e poi però gli capita una cosa a cui il destino, insomma, ovviamente gli tira un tiro mancino. Un giorno, tornando a casa, incontra una donna sulle scale e l'aiuta con la spesa. E questa è la donna che diventerà sua moglie. E però è nera. E questo gli cambia completamente la prospettiva. L'amore gli ribalta tutta la visione che aveva della vita fino a quel momento. E anche lui si mette in discussione. Ecco, questo per dire che i nostri personaggi sono sempre comunque personaggi che si scontrano con la realtà che vivono. Farci conti. Allora io farei un'ultima domanda così poi vediamo se c'è qualcuno che vuole chiedervi qualcosa. Un po' me l'hai anticipato tu parlando di Giulia Tinebra, perché tutti i personaggi anche tra virgolette secondari sono molto curati, sono molto delineati. Anche l'ambiente della questura, anche fisicamente, cioè uno che è andato solamente a fare il passaporto a Bolzano, legge il libro, riconosce quasi ogni angolo della descrizione, eccetera, anche i volti, perché per esempio Moretti io lo inquadro, lo associo a certi poliziotti che conosco della questura, o ex poliziotti più che poliziotti attuali. Ecco, però parliamo un po' delle figure femminili, perché Giulia Tinebra è un gran bel personaggio e anche Daniela, la barista, ah, certo. Che è una personaggio centrale nella vita di Tanino. Anch'essa è un bellissimo personaggio. Ci volete parlare un attimo delle figure femminili del libro? Dopo 20 anni siamo riusciti a scrivere un personaggio che crediamo. Sì, beh, è un po' uno scherzo fra di noi che dura da tanti anni. L'eterna difficoltà per uno scrittore maschio scrivere personaggi femminili che siano credibili, che siano non siano macchiette o bozzetti o comunque personaggi banali, insomma la poliziotta, la donna con la pistola, la poliziotta dura e pura, il maschiaccio o la lesbica, perché se allora deve essere per forza, ce la devi avere sempre ormai, se no. Cioè, scrivere i personaggi con le quote è un'altra delle cose fondamentali, quindi ci vuole quello di colore, quello ecco, un po' volevamo evitarla questa cosa, però naturalmente non puoi evitare di avere dei personaggi femminili e comunque ci faceva piacere che ci fossero e ci stuzzicava professionalmente l'idea di riuscire a delinearli come magari in passato non eravamo ancora riusciti a fare. E naturalmente non possiamo giudicarlo noi, abbiamo cercato di puntare e sull'approfondimento delle loro storie personali, cercando di lasciare da parte pensare come la farebbe una donna questa cosa, come la direbbe una donna. Abbiamo cercato di creare, costruire loro un passato, dei ricordi, qualcosa che ci permettesse di visualizzarle e come esseri umani prima che come donna, come uomo, e questa cosa dei ricordi credo che ci abbia aiutato, questa cosa di costruire loro un passato che magari nella storia non emerge o ancora non emerge, magari chissà, in una storia futura ci sarà qualcosa di Giulia Tinebra, del passato di Giulia Tinebra c'è ovviamente, c'è sia in questo che nel romanzo precedente. Ma proprio da un punto di vista tecnico la cosa fondamentale per noi era che ce l'avessero, che lo sapessimo noi, che tipo di storia ha Giulia, il rapporto che ha con la sorella che ha avuto dei problemi di droga, il rapporto che ha con il padre, che è una figura ambigua, non si capisce bene se e fino a che punto è responsabile della, del fatto che l'altra sorella si sia persa, come si è persa oppure no, insomma, e questi sono spunti naturalmente che potrebbero anche dar luogo a una futura indagine, chissà, perché no, ma al di là della prospettiva in chiave di trama, era fondamentale per noi ed era per noi caro avere un punto di riferimento biografico proprio del personaggio in sé, che ci consentisse di accedere al suo carattere, perché il carattere di una persona si fa naturalmente con le sue esperienze, almeno secondo me è così, con l'interazione anche con le esperienze che ha avuto. E quindi per noi questa cosa era fondamentale, che lo sapessimo noi che cosa ha passato Giulia di Nebra, che cosa ha passato Daniela prima ancora di affrontare la prova che in questo romanzo deve affrontare, insomma, non lo anticipo ovviamente, però per capire come avrebbe reagito a una esperienza che sconvolge la vita, ci serviva sapere come aveva reagito in passato ad altre cose che aveva affrontato, e su questo ci siamo confrontati. Sono cose che magari non verranno mai fuori, però siamo partiti da quello, insomma, al di là, prima che dal genere, dal sesso del personaggio, dalla sua storia. Quella era una donna, quindi siamo riusciti, spero, a immaginarla nel modo giusto, a rendere credibile le loro reazioni, il modo in cui affrontano le cose. Però chiaramente, insomma, sul giudizio, diciamo, di valore, sospendo. Ma anche lì è un ragionamento sull'altro da sé, no? E c'è anche una questione di genere, abbiamo cominciato anche a ragionare su questo. Sarà un caso, ma non credo proprio sia io che Giuliano, abbiamo due figlie femmine. E devo dire, la nostra scrittura dei personaggi femminili, da quando si è diventati papà di due ragazze, che adesso sono pure cresciute, io credo che abbia veramente cambiato molta della nostra prospettiva da scrittore. Per me la questione di genere è all'ordine del giorno. Quando mia figlia a scuola deve affrontare delle situazioni in cui viene bullizzata in quanto femmina, e devo dire che lo affronta anche in un certo modo, io mi devo cominciare a porre delle questioni. E ho cominciato a ragionare su tantissime cose che davo per scontate. Secondo me lo fa anche Tanino. Tanino Barcellona è, per certi versi, è un personaggio volutamente stereotipato, perché a un certo punto deve mettere in discussione tutto quello in cui crede. C'è un episodio centrale, la prova centrale, che viene affrontata da Daniela, ma anche da Tanino, che gli ribalta totalmente la vita. Tra l'altro Tanino viene messo in discussione non solo da Daniela, ma da tutte le donne che incontra. Lui è un po' un Don Giovanni, se vogliamo, no? Gli piace flirtare con tutte le donne che incontra, ci prova con tutte, spesso ci riesce. Però rispetto alla visione che ha dell'universo femminile, molto spesso le risposte che riceve sono destabilizzanti per lui. Sono delle figure che gli ruotano attorno, che insomma, gli ribaltano un po' la prospettiva. C'è un'altra figura femminile a cui siamo molto affezionati. Giulia Tinebra è il terzo personaggio principale, sostanzialmente. Forse viene un po' fuori meno rispetto ai due giocatori centrali, ma sicuramente sta crescendo e vorremmo che diventasse un personaggio principale. Poi c'è anche il primo dirigente della Mobile, Angelica Guidi, che in questo romanzo ha un ruolo particolare, e lì abbiamo ragionato sul fatto che lei dovrebbe ricevere a brevissimo la promozione a questore e non la riceve per tutta una serie di questioni. Una tra esse è perché è una donna. Ci siamo chiesti, se la stessa cosa fosse successa a un uomo, quella che succede nel romanzo, sarebbe finita così? No, non credo. Bene, io direi che lasciamo fare qualche domanda, se qualcuno vuole. Questo è sempre il momento più imbarazzante. Faticoso, imbarazzante. Non è una domanda relativa al giallo, ma vorrei fare un'osservazione come bolzanina di enormemente lungo corso. La mia famiglia è arrivata a Bolzano nel 50. Posso chiederle da dove? E mi è difficile rispondere, in quanto la mamma era istriana, e però venivano, diciamo, da Roma. Il papà era stato fare il pilota dell'esercito, poi era, aveva vinto il concorso di ingegnere capo agente civile nel 50, e quindi era lui romano. Sì, sì. E quindi io in questi 70 anni ho avuto modo di percepire la realtà locale, ho studiato a Venezia, in Francia, eccetera. Ogni volta che tornavo a Bolzano, non so perché, vorrei che si parlasse un momento di questo, io sentivo che mi veniva apposta una fascia al braccio che mi distingueva in quanto italiana. Era una percezione netta che ho ancora molto meno, però se io vado nel Veneto o in qualche altra parte o in tutta Europa, ovunque sono andata, ero una persona con la dignità di persona. Giravo per Londra, dicevo, ma io ho la mia dignità di persona. Qui avverto, e quando sento parlare di città ordinata, pulita, un modello, dico, ma chi l'ha messa in giro questa? Chi l'ha messa in giro? Perché questa, quindi dico, magari si ricorda di un corso libertà che fu in epoche arcaiche un quartiere borghese tenuto bene, pulito, ci ricordiamo della... lavaggio dei adesso se passa guarda per terra, torna a casa, si disinfetta le suole e dice oddio, non me ne va, un degrado spaventoso. In questo degrado spaventoso non so perché il mio occhio viene attratto da le scuole in cui io feci le elementari e le medie, cosiddetto futuro divenente polo bibliotecario, si sta aspettando che marciscano e cadano perché la facciate prima che si faccia. Passo, vengo in questo deplorevole piazza Domenicani e vedo il conservatorio che dovrebbe essere un tempio per i bolzani, un tempio, ci si è stato Arturo Benedetti Michelangeli, Mascagni, crolla a pezzi, pezzi, da anni. Passo davanti al monumento della vittoria, potrà essere discusso quanto si vuole, io parlo da italiana, ma non da italiana fanatica nazionalista, parlo da italiana, di famiglia, di cultura, diciamo, prevalentemente certi tempi. Osservo la metopa del monumento alla vittoria, manca un pezzo. Non siete capaci di mettere un pezzo di questo? Da quanto tempo? Allora, tutte queste cose mi fanno venire degli inquietanti pensieri e dico, ma in definitiva sono passati 50 anni dal secondo statuto di autonomia in cui il gruppo che si è sentito svantaggiato ha ragione in certe cose, benché non si possa dimenticare che l'Italia è arrivata, ha avuto questo territorio con sicuramente cursi, diciamo, del tutto da parte di chi si è seduto al tavolo della pace, perché un territorio che ha secoli... signora... ecco. Sul sintetico, anche perché no. Dobbiamo parlare del libro, non del partito. Sì, no, no, ma io volevo dire questo. Il gialli, qui si è parlato di, diciamo, lei ha accennato a difficoltà di tipo etnico. Non sarebbe stata un'idea magnifica creare delle scuole bilingui, tutte le scuole bilingui con terza lingua obbligatoria l'inglese? Già, questo è sicuramente giallo. Sì, le rispondo subito. Sicuramente sì, forse questo è un giallo che va indagato in altre pagine probabilmente. Io sono d'accordo sul fatto che ci vogliono delle scuole bilingue, sicuramente questo giallo ha a che fare con delle tensioni, soprattutto la prima, che sono rimaste lì a covare sotto la cenere. Ora, noi da giallisti naturalmente descriviamo il lato oscuro di questa città, però il lato oscuro io credo che vada oltre il fatto che il muro del conservatorio si sta sgretolando, insomma quella è una questione di così, insomma, amministrazione pubblica. Qui il lato oscuro è sicuramente a che fare con l'animo umano più che con le mura che si sgretolano. Poi dal punto di vista del degrado, ripeto, lui viene da Messina, io vengo da Bologna, diciamo che insomma il degrado per noi è un'altra cosa. No, ma sai cos'è? Che quando tu hai l'asticella molto alta, poi basta il muro spostato e quello... Ma infatti non è che non esista per te, no? No, certo. Ma è ovvio, no, ma è anche sacrosanto, per carità, non è che ti sto dicendo, guarda. È tutto relativo. Poi è tutto relativo. Poi è chiaro che stiamo parlando di una regione che in altri contesti io definisco sempre una colonia italiana. Questa è una colonia italiana, no? E quindi, insomma, capisco che chi... all'epoca si è ritrovato invaso, è stato costretto all'italianizzazione, a cambiare la lingua e tutto ciò, insomma posso capire che faccia fatica. Poi chiunque ha vissuto qui negli anni 70 magari l'ha vissuto anche sulla sua pelle. Tornando a Tanino, mi viene in mente questo: Tanino è uno che si annota le parole in tedesco e vuole imparare il tedesco. Per il suo lavoro è utile far poliziotto, gli può capitare di dover parlare in tedesco o di dover capire determinate conversazioni in certi momenti, no? E questo l'abbiamo scritto anche perché io, che ho fatto le scuole elementari qua, e ve lo ricordate, già all'asilo facevamo il tedesco, no? Ma quanti di noi parlano bene il tedesco, no? E chiunque da fuori mi dice, ma come, l'hai studiato per 20 anni della tua vita e non lo sai, com'è possibile? E allora abbiamo voluto mettere un personaggio che arriva qua e in pochi mesi comincia a impararlo perché gli è utile, no? E mettere, come dire, sotto la luce anche questo, cioè la difficoltà di imparare una lingua perché ti è stata imposta, se vuoi, e quindi tutta una serie di questioni. Che... Ma giusto così per una curiosità che lancio lì, negli ultimi anni abbiamo avuto una nuova emigrazione dal sud Italia, in Alto Adige. E, io conosco tante persone che hanno preso il patentino A in un anno. Hanno imparato il tedesco come... senza, diciamo, nessun tipo di condizionamento, di dover fare, eccetera. Allora, quando il patentino A, il patentino B, in 1 o 2 anni, no? Che è incredibile, gli amici miei che vivono qui da una vita hanno la possibilità di fare l'immersione totale in una valle tutta l'estate e non lo parlano. Vabbè. Altre domande? Io avrei una domanda sullo scrivere in collettivo. Perché sotto lo scrittore è abbastanza, è il suo romanzo, decide cosa fare nel suo romanzo. Non mi capita mai di non essere d'accordo, cioè nel senso che a un certo punto il protagonista muore, però tu lo vuoi farlo morire Guglielmo Silva, ne parlavamo prima costantemente, ma capita spessissimo, generalmente lui vuole uccidere tutti i personaggi che funzionano bene e no, ma questo poi lo facciamo morire, ma non lo facciamo morire perché, cioè, questo è la discussione di oggi pomeriggio era questa. È un personaggio fertile, questo ci può permettere di andare avanti anni con quelle... No, ammazziamole un altro che magari è meno... con la discussione interna. Assolutamente è vera questa cosa, siamo in disaccordo spesso, ma come tutte le coppie, se non litighi, se non... la bravura di stare insieme e la bravura di trovare un modo di superare il momento di disaccordo, la tensione, cioè noi scriviamo insieme da 20 anni, quindi ci conosciamo benissimo. E una cosa che dico sempre quando mi chiedono come si fa, come si parte, da che cosa si parte, ci possono essere tanti modi dal punto di vista tecnico di scrivere insieme. Fondamentale per quanto mi riguarda, diciamo, l'esperienza che io ho fatto, è scrivere con una persona che per me è un amico fraterno. Non potrei scrivere allo stesso modo con qualcun altro. Potrei sì fare qualcosa, ma non a questo livello di confidenza, di capacità di interscambio dei ruoli nella scrittura. Poi dal punto di vista tecnico si trovano mille modi di farlo, ragioni prima sulla trama, fai una scaletta ben precisa, ti suddividi i capitoli, oppure si va avanti magari in maniera più alla garibaldina, però per noi e questo conta relativamente, proprio perché ormai ci conosciamo talmente bene, abbiamo uno stile terzo, altro rispetto a quello che è il mio stile personale o il suo stile personale di quando scriviamo cose individuali. È lo stile che utilizziamo appunto per scrivere insieme. E quindi da un punto di vista stilistico la cosa va proprio liscia da sé. E da un punto di vista appunto dell'essere o meno più o meno d'accordo su come mandare avanti la trama, su chi ammazzare e chi non ammazzare, lì si discute, si chiacchiera, ci si becca un po', ma insomma lì subentra quel piacere di condividere qualcosa, che è una storia oggi, domani magari un'altra cosa, ma e quindi comunque una direzione che soddisfi entrambi, sia da un punto di vista professionale dello scrittore, sia dal punto di vista insomma del magari voler prevalere sull'altro dal punto di vista del carattere, insomma la soluzione la troviamo. A lui non piaceva il titolo. Ah, sì. Il titolo, cioè, io ho dovuto martellare e poi insomma anche chiamare la sponda di persone insomma che l'avevano letto, dell'editore, insomma alla fine lui si è arreso, visto che comunque il titolo piaceva, e quindi, però lui no, non mi piace. Che titolo avrebbe avuto se no? Questo era il problema, che non riuscivo a trovare un titolo adeguato. E quindi alla fine era spuntata lui, perché gli ho detto a un certo punto chiamiamolo Su Nettuno piovono diamanti. Mi fa, ma che cazzo c'entra? No. In effetti no, non c'entra niente, però è un bel titolo per il prossimo. Il mondo in fiamme, meglio di fiamme, però non mi piace. Allora guardate, l'arma segreta, l'ho detto anche prima, l'arma segreta non esiste, no? Già nel mondo in fiamme. Il mondo in fiamme esiste, ma anche... Poi, beh, è di, però di attualità. Sì, sì, esatto, è di attualità e poi è legato alla canzone che apre il romanzo. Ora, ecco, questa è l'arma segreta, l'abbiamo detto anche prima in un'intervista, quindi non è più segreta. Abbiamo scoperto da un paio d'anni, da ormai qualche anno a questa parte, che ci aiuta moltissimo a seguire lo stesso ritmo. Quindi ascoltiamo la stessa musica mentre scriviamo. Dico, guarda, ascolta, a parte il folk apocalittico, quello non ce l'ho fatta. Diciamo che esatto, lui su certe cose non mi segue. Diciamo che poi il ritmo li lascia un po' a desiderare. Però, ad esempio, il primo libro nasce all'insegna di una canzone di Nick Cave. E tra l'altro il titolo viene da quella canzone. Cioè, la canzone è Jubilee Street, dice tutta quella brava gente su Jubilee Street che predica bene ma razzola male. No? E quindi, all those good people. Tutta quella brava gente. E quindi quel disco in particolare di Nick Cave, Push the Sky Away, ci ha fatto da colonna sonora per quella scrittura. E quindi andavamo al ritmo di Nick Cave, no? Quindi un ritmo non eccessivamente veloce, un ritmo sensuale, un ritmo tormentato. Qui abbiamo scelto di aprire il romanzo con un'altra citazione, per quello io l'avrei chiamato Il mondo in fiamme. È una citazione da un pezzo famosissimo di Chris Isaak che si chiama Wicked Game, che dice: il mondo era in fiamme e l'unica persona che avrebbe potuto salvarmi sei tu. E il libro si apre con questa citazione e l'abbiamo scritto effettivamente al ritmo di quel disco là di Chris Isaak, che è Silverton, che è un disco rock classico, e questo ha un incedere di quel tipo lì, con dei momenti più tormentati, dei momenti più movimentati e dei momenti anche abbastanza onirici, proprio come Wicked Game. Quindi abbiamo questo vezzo che però ci sta aiutando. Il ritmo di scrittura segue un andamento musicale, uno spartito musicale, quindi questa è una trovata che abbiamo escogitato. Come fa l'orchestra? Come fa l'orchestra? Posso? Certo. Allora, io gli ho letti tutti i due libri. No. Grazie. 4 ore ieri pomeriggio. Wow. Dovevo assolutamente... ecco. Pensare a fare da cena, ma no, l'ho letto. Oh. Bene, ecco, allora, complimenti, benissimo. Vi dico una cosa, allora, sono venuta a conoscervi perché è stato un collega di mio figlio, un collega di lavoro che è un suo parente, a parlargliene, no? Ecco, mio figlio me l'ha riportato e sono andata a comprare i libri e li ho letti e così via. pensate che io sono brevissima, tre anni fa sono rimasta sola, quindi non sarei stata in grado di leggere, perché secondo me la lettura va fatta in determinati periodi, no? Quindi io mi sono servita tantissimi libri d'amore, perché avevo bisogno di questo in questo periodo. Stanno passando tre anni, adesso posso anche leggere altre cose. Fortunatamente sono venuta a conoscenza, io lei, bellissimi. Ho visto Bolzano, la conosco benissimo perché io sono nata e sempre cresciuta. Quando parlava prima di Bolzano, pensi che nel 1946 la parte che da Ponte Druso andava verso via Torino era chiamata Italia. Certo. Dove vai? Vado in Italia. Questo era. Quindi la storia, modestamente, ecco, ricordo il periodo delle bombe, ricordo che si lavorava in ufficio, si chiudevano, no, mentre passavano. Ricordo, la mente mi tiene ancora, fortunatamente. Quindi, forza, scrivete che... i prossimi sono 87. Complimenti. Complimenti. Dovete darci sotto. Va bene. Ecco qui, complimenti, bellissimi. Grazie. Queste sono le cose che sono meglio. A me interesserebbe un sacco sentirvi raccontare un po' di come nascono i personaggi. Po' prima avete accennato che vi immaginate il passato. Ma guarda, sì. Per quanto riguarda due protagonisti, in realtà siamo stati aiutati dalle esperienze di vita personali, perché quantomeno in embrione, in effigie, Tarino Barcellona è un poliziotto che io conosco. Esiste davvero, un ex poliziotto, sì. Non si chiama Tarino Barcellona, ovviamente, ma fisicamente, caratterialmente è lui. Lui non lo conosce. Non l'hai conosciuto perché doveva venire alla presentazione a Milano, ma poi ha avuto un problema e non è venuto. E quindi personalmente, per quanto riguarda Tanino, cioè io lo vedo, ce l'avevo già pronto. È naturale che una cosa è, diciamo, il bozzetto del personaggio, che naturalmente parte da lì, che è un siciliano fiero di essere siciliano, che gioca col suo essere meridionale, anche insomma con l'accento, con il porsi anche da meridionale al nord, come effettivamente è questo ragazzo, non è più un ragazzo, insomma, perché lui faceva il poliziotto a Bressanone. E quindi, diciamo, la scintilla per quanto riguarda Tanino Barcellona è nata da lì. Poi naturalmente gli abbiamo dato insieme tutta una serie di nuance, di caratteristiche, di lati più o meno scuri, sono nati via via. Come dicevo prima, attraverso le esperienze che fa, scopriamo man mano qualcosa di lui. E quindi il personaggio, partendo dal bozzetto, si va sempre più ad allontanare dal bozzetto, a diventare più complesso, ecco, più a tutto tondo, se vogliamo. E Rotte Steiner è, sì, anche lui era, non so se... Sì, era ispirato a un poliziotto della questura di Bolzano che conosceva mia madre, era insomma un personaggio di questi un po' si credeva all'ispettore Callaghan in certe situazioni. Insomma, poi, quello che interessa a me, soprattutto quando... Se fosse lui quello che si è allontanato... Sì, si è allontanato di più dall'originale. Dall'originale. Sai cosa succede? Quando tu scrivi un personaggio all'inizio, come dicevo prima, come nel caso di Marco Felder, è una figurina bidimensionale. Poi piano piano vive delle esperienze e cresce, e il personaggio comincia a chiederti delle cose. no? Come reagirebbe, come reagisce di fronte a questa situazione? E lì sei tu che devi fare un po' i conti con te stesso. Ti devi chiedere, almeno io personalmente faccio così, io come reagirei in quella situazione? E però cerco di chiedermelo spingendo molto l'acceleratore. E cerco di guardare quali sono le mie fragilità, le mie meschinità. Insomma, mi metto un po' a nudo e cerco di fare in modo che il personaggio faccia lo stesso, no? E quindi di fronte a una certa situazione, lo dicevo prima, lo metto sotto torsione e vedo che cosa ne viene fuori. E molto spesso vengono fuori anche dei lati con cui uno fa fatica a fare i conti. Tanino a un certo punto, a metà del romanzo, dicevamo prima, gli succede qualcosa. E scopre qualcosa di sé che non avrebbe voluto scoprire. Scopre ad esempio di essere razzista. Oppure ci sono altri personaggi che abbiamo utilizzato, se vuoi, come macchiette, come personaggi secondari, che poi sono cresciuti, ci sono piaciuti talmente tanto, ci sono venuti incontro dicendoci io ho bisogno di essere raccontato, e noi l'abbiamo dovuto raccontare. C'è, cioè, ad esempio il nostro personaggio preferito in assoluto, che è un personaggio totalmente secondario, che è il Faina. Faina è un personaggio, è un candido quasi volteriano che attraversa la vita con la sua visione del mondo ed è quello che invece sulla carta sembra magari un razzista, ma non lo è. È semplicemente fatto così, è una di queste persone che affronta la vita tutto sommato in maniera molto... così, passeggio, lui passeggia per la vita. E ci piace lavorare su questi caratteri, sono quelli che ci aiutano poi a lavorare sui personaggi principali. Noi i personaggi principali li lavoriamo tantissimo, soprattutto nel rapporto che hanno con gli altri personaggi, ed è lì che vengono fuori le loro difficoltà, la loro umanità, i loro pregi, i loro difetti, è sempre nel rapporto. E qui torniamo all'altro da sé, no? Cioè io lo dico sempre, quello che sono io quando sono qui con voi non sono quello che sono io da solo. Allo stesso modo i personaggi funzionano così, no? C'è un loro io più nascosto, come se fossero delle cipolle, dei carciofi. C'è un loro io più nascosto, e io come scrittore lo conosco fino a un certo punto, e lo mostro solo in determinate situazioni, no? E quindi è bello lavorare su più livelli e approfondire, no? E spingersi sempre più in giù all'interno di un personaggio e scoprire insieme a lui certe cose. Questa forse è la parte più divertente, soddisfacente e alle volte dolorosa del mestiere dello scrittore. Sì, e anche il bello di scrivere storie come queste che hanno una loro coralità. Ci sono molti personaggi naturalmente e il modo in cui interagiscono ci consente di farli crescere anche appunto in modo inaspettato. È un giallo classico, se vogliamo, un giallo tradizionale all'italiana, il che significa che basta guardare qualunque fiction televisiva di tipo giallistico, accanto ai personaggi che conducono l'indagine principale, che quindi hanno una tensione morale e al di là anche proprio tensione. E ci si mettono i personaggi secondari che fanno la macchietta, che fanno il lato comedy del giallo, che nel giallo all'italiana è un elemento fondamentale, no? C'è sempre il Catarella di turno, insomma, Catarella è vabbè. Non si può lavorare con ma questo è il materiale umano che ti hanno però fornito, però una cosa è farne sempre lasciarli al rango di macchietta che si usa per stemperare la tensione che magari si pensa il lettore italiano non regge oltre un certo punto e quindi bisogna dargli la caramella, no? Insomma, lo zuccherino per farlo andare avanti, questo soprattutto in TV vale, però insomma, non so. E noi cerchiamo di sfruttare questo aspetto, questa tecnica, andando un po' oltre, facendo in modo, e credo che questo ci aiuti anche da un punto di vista sia della fluidità narrativa che dell'approfondimento dei personaggi, cioè fare in modo che attraverso le relazioni, che le relazioni fra questi personaggi abbiano un significato, un valore, una valenza anche di relazione umana, che va, di dinamica che va al di là della necessità di avere la risata a un certo punto che ti stempera la tensione. E quindi il Faina è vero, è forse il nostro, in assoluto il nostro personaggio che ci divertiamo di più a scrivere, perché insomma c'ha delle uscite lunari che ci diverte molto fare, ma al di là di questo è cercare di coinvolgerlo, amalgamarlo da un punto proprio di vista della dinamica di relazione con gli altri personaggi, ci consente di tirar fuori qualcosa di più da lui e di tirar fuori qualcosa di più dai personaggi che magari era inaspettato, non pensavamo di trovare invece, e questo vale per il Faina ma vale anche ovviamente per tutti gli altri. Sì, c'è una scena che non abbiamo ancora scritto del Faina, quindi forse la scriveremo nel prossimo romanzo. Ad esempio, Danino incontra Faina in ascensore ed è Natale, e Faina gli dice: oh, vuoi venire a casa mia per Natale? Ci sono tutti i parenti, c'è posto anche per te. Lui dice: no, io torno in Sicilia finalmente, me ne vado giù in Sicilia. Ah no, perché ho invitato anche Carl, ma tanto non viene come tutti gli anni. E Danino gli dice: e allora perché continui a invitarlo? Perché altrimenti non inviterebbe nessuno. Mm-hmm. Lui è così, e ci piace lavorare su queste sfumature. Mm-hmm. Grazie. Altre domande? Siamo a posto? Che abbiano a che fare con il libro, poi. No, poi dopo quello... Vabbè. No, poi, se volete, possiamo parlare di altre cose in un'altra sede, fuori. Un'ultima curiosità, c'è stata un paio di volte la frase di Hannah Arendt in Piazza Tribunale. Questa scelta perché? Questa scelta perché, allora, siamo sempre nel momento di cui continuiamo a parlare, ma insomma lo leggerete forse. Allora, a metà romanzo succede qualcosa, le cose cambiano, c'è il giro di vite. Tanino si trova in una situazione piacevole, è con Giulia, in una situazione, insomma, in una piscina, tra due lune, diciamo, perché è una piscina a forma di luna e sulla sua testa si vede la luna. Quindi lui si trova tra due lune ed è effettivamente un momento di passaggio. Quando torna a casa è tardi, è ubriaco, lascia Giulia in via Rohan, e lui torna a casa a piedi, tanto abita in via Fiume. E camminando passa in piazza del tribunale e vede la scritta: nessuno ha il diritto di obbedire. Ed è quella una frase chiave. Ed è la frase che poi diventerà il leitmotiv per tutto ciò che lui farà da lì in poi. Ma la cosa che ci interessava molto è che in questo suo momento di ebbrezza legge questa frase e quel diritto non gli torna. Dice: ma come il diritto? Il dovere, no? Di obbedire. Com'è che c'è il diritto di obbedire? Com'è? E quindi la suggestione filosofica che ci dà Hannah Arendt, no? Che ribalta la prospettiva, perché il dovere di obbedire è una cosa, il diritto è un'altra. Nessuno ha il diritto di obbedire a certi ordini, no? È veramente perentorio e moralmente innesca sicuramente un meccanismo di riflessione. Ecco, Tanino si ritrova di fronte a questo e tutta la seconda parte del romanzo la passa a risolverla, passa a risolvere inconsciamente questo dilemma, e alla fine capisce che non ha il diritto di obbedire a certe cose, e credo che sia proprio la suggestione di quella frase, sia tutta lì, in quel ribaltamento di prospettiva, in quel ribaltamento di parola, là dove dovrebbe esserci il dovere c'è un diritto. Ecco, io credo che questo sia fondamentale e la seconda parte del romanzo ragiona tutto su questo. Bene, allora grazie a Giada, grazie a Guglielmo, Luca. Grazie di questa chiacchierata e grazie per essere venuto in questo caso. Se volete, non avete ancora...